Ehi, ehi, ehi. Questo qua non è uno scontro diretto per attaccare briga. Questa non è una sfida o una rivolta. Questo è XXX numero 10, la libertà di parola. Ok? Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in buca. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in buca. Sono arrivato al lavoro in stampelle a spiegare quello che era successo. Dallo sguardo non c'era interesse, ma il pensiero che abbia avuto un pretesto in questa calda estate per un poco di festa. Che cazzo vi passa in testa? Canottiera, occhiale, bermuda. Sto qua se la spassa io gli pago la mutua. Lo scemo, fai stare la vecchia muta. La mia scuola è aiuto, una mano che ti aiuta. Attento, per uno stipendio non ti appartengo. Sto vizio, capo, ora ti tocco il tempo. Riesco pure a fare il VIP così, fermi in casa scrivendo e spedendo foglie all'Ips. Un'ora in più la faccio, due le faccio, ma quando sto male non mi scassate il cazzo. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in mutua. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in mutua. Sono il cameriere del bar in piazza, quello che verrebbe i tavoli con una mazza. Sono stra mega super stressato, caffè normale, sì però macchiato. Mi scende la stamina e per i soldi mica ci metto l'anima. Il capo capita come i colleghi ai lavori, non scegli, li odi, ci leghi o li ignori. Signori, come ciliegina, sul gelato il mio disco invece che la cialdina. Bine, mai caduto in cantina, mai la scaletta, la vetta o la vetrina. Posso farti un regalo a modo nostro, una maglietta XXX ricordo. Senza rancore era solo un discorso, anzi ti concedo di farmi da sponsor. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in mutua. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in mutua. Aiutati, e il cielo ti aiuta. Preghi di trovare qualcuno che non discuta. È una vita gramma, è una vita dura, e mi fanno pesare questa sciagura. Sono in casa con la schiena che suda, sono in camera e la porta chiusa. Con sto caldo capissi la tortura, invece sei ignorante e mi aspetto una congiura. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in mutua. Bine, vuoi lucidare buca? E dai che puoi, ma che cazzo vuoi? Bine, vuoi fly, suca? Spaccami di rime cose andiamo insieme in mutua. XXX numero 10. Ogni riferimento a persone, fatti è del tutto casuale, del tutto casuale e del tutto naturale.